La donna, il cui volto ci sta davanti, più costantemente della stessa luce, giacché nemmeno a occhi chiusi cessiamo un solo istante di vagheggiare i suoi begli occhi, il suo bel naso, di escogitare tutti i modi per rivederli, questa donna unica. Sappiamo bene che un'altra lo sarebbe stata per noi se solo ci fossimo trovati in una città diversa da quella in cui l'abbiamo incontrata, se fossimo andati a passeggiare in altri quartieri, se avessimo frequentato un altro isolato. Unica, la crediamo, è innumerevole. E pur tuttavia è compatta, indistruttibile davanti ai nostri occhi che l'amano, e sostituirla con un'altra è per molto tempo impossibile. Semplicemente questa donna ha suscitato con delle specie di evocazioni magiche mille elementi di tenerezza che esistevano in noi allo stato frammentario, riunendoli, unificandoli, eliminando ogni lacuna fra loro. E noi stessi, dandole i suoi tratti, abbiamo fornito tutta la materia solida della persona amata. Ne consegue che, sebbene noi per lei siamo soltanto uno fra mille e forse l'ultimo di tutti, per noi lei è la sola, e verso di lei tende tutta la nostra vita. L'avevo pur sentito, certo, che quell'amore non era necessario. Non solo perché si sarebbe potuto formare con Mademoiselle de Stermaria, ma, a parte questo, conoscendolo in sé, ritrovandolo troppo simile a ciò che era stato per altre, e anche sentendo che era più vasto di Albertine, che la volgeva, che la ignorava, come una marea attorno a un esiguo frangente. Ma quelle catene che io stesso avevo forgiate, a poco, a forza di vivere con Albertine, non ero più in grado di liberarmene. L'abitudine d'associare la persona di Albertina al sentimento che non mi aveva ispirato mi faceva comunque credere che questo le fosse peculiare, giacché l'abitudine, stando a quel che sostiene una certa scuola filosofica, conferisce alla semplice associazione di idee fra due fenomeni la forza, la necessità illusoria di un nesso di causalità. Avevo creduto che le mie relazioni, la mia situazione economica m'avrebbero dispensato dal soffrire, e con troppa efficacia, forse, perché mi sembrava così, d'esser dispensato dal sentire, dall'amare, dall'immaginare. Invidiavo le povere ragazze di campagna a cui l'assenza di relazioni e persino di telegrafo concedono lunghi mesi di sogno dopo un dolore che non possono loro addormentare artificialmente. Mentre mi rendevo ben conto adesso che, se per Madame de Gourmand, alla quale non mancava nulla di ciò che poteva rendere infinita la distanza fra lei e me, avevo visto tale distanza repentinamente soppressa dall'opinione, dall'idea secondo cui i privilegi sociali non sono che materia inerte e trasformabile, in modo analogo, sebbene inverso, le mie relazioni, la mia situazione economica, tutti i vantaggi materiali di cui potevo approfittare grazie sia al mio patrimonio sia alla civiltà del mio tempo, non avevano che rinviato la scadenza della lotta corpo a corpo con la volontà contraria e inflessibile di Albertine, sulla quale nessuna pressione aveva agito. Come nelle guerre moderne, in cui la preparazione dell'artiglieria, la formidabile portata delle armi, non fanno che ritardare l'attimo in cui gli uomini si gettano uno sull'altro ed è il cuore più forte ad avere la meglio. Avevo potuto, certo, scambiare dei telegrammi, delle telefonate con Saint-Loup, essere in continuo contatto con l'ufficio di Tours, ma la loro attesa non era forse stata inutile, nullo il loro risultato? E le ragazze di campagna senza alcun privilegio sociale, senza alcuna relazione, o gli esseri umani prima dei perfezionamenti della civiltà, non soffrono forse meno? Dal momento che si desidera meno, che si rimpiange meno ciò che si è sempre saputo inaccessibile ed è rimasto dunque come irreale? Si desidera di più la persona che sta per concedersi. La speranza anticipa il possesso, il rimpianto è un amplificatore del desiderio. Il rifiuto di Mademoiselle de Stermaria di venire con me a pranzo all'isola del Bois aveva impedito che fosse lei l'oggetto del mio amore. Sarebbe anche potuto bastare a farmi innamorare di lei se in seguito l'avessi rivista in tempo. Non appena avevo saputo che non sarebbe venuta, prospettandomi l'ipotesi inverosimile è destinata a rivelarsi vera, che forse, essendoci qualcuno che ne era geloso e la teneva lontana dagli altri, non l'avrei mai più rivista. Avevo talmente sofferto che avrei dato qualsiasi cosa pur di vederla, e l'arrivo di Saint-Lou aveva placato una delle peggiori angosce che avessi mai conosciute. Ora, a partire da una certa età, i nostri amori, le nostre amanti, sono figli della nostra angoscia. Il nostro passato e le lesioni fisiche in cui esso si è inscritto determinano il nostro avvenire. Riguardo in particolare ad Albertine, che non ci fosse alcuna necessità nel mio innamoramento per lei, era inscritto, anche a prescindere da quegli amori vicini, nella storia del mio amore per lei, cioè per lei e le sue amiche. Perché non si trattava nemmeno di un amore come quello per Gilbert, ma di un amore nato per suddivisione fra più fanciulle. Era possibile che fosse a causa di Albertine, e perché le sue amiche mi sembravano qualcosa di analogo a lei, che m'ero trovato bene con loro. Resta il fatto che, per molto tempo, potei esitare fra tutte. La scelta si spostava dall'una all'altra, e quando credevo di preferire questa, bastava che quella mi facesse aspettare, mi rifiutasse un incontro perché concepissi per lei un inizio d'amore. Molte volte a Balbec, se avevo deciso di dirle, mentendole, perché non sembrasse che tenevo a lei: «Peccato, se solo foste venuta qualche giorno fa, ora ne amo un'altra, ma non importa, potrete sempre consolarmi». Poté accadere che mentre aspettavo una visita di André e poco prima del suo arrivo, Albertine mi mancasse di parola. Il mio cuore si metteva a battere senza posa, mi convincevo che non l'avrei più rivista ed era lei che amavo. E quando André arrivava, le dicevo veridicamente, come le dissi a Parigi dopo aver appreso che Albertine aveva conosciuto Mademoiselle Vinteuil, ciò che lei poteva credere detto apposta, senza sincerità, e che forse le avrei detto davvero così e negli stessi termini, se il giorno prima fossi stato felice con Albertine. «Ah, se foste venuta prima, ormai ne amo un'altra». E ancora, in questo caso della sostituzione di André con Albertine, quando appresi che Albertine aveva conosciuto Mademoiselle Vinteuil, l'amore era stato alternativo e dunque, tutto sommato, non ce n'era stato che uno alla volta. Ma c'erano stati dei casi in precedenza in cui avevo avuto un mezzo litigio con due delle fanciulle. Quella che avesse fatto il primo passo m'avrebbe restituito la calma e avrei amato quell'altra con cui fossimo rimasti in lite, il che non vuol dire che non mi sarei potuto legare definitivamente con la prima se questa mi avesse consolato, sebbene senza efficacia, della durezza della seconda, seconda che avrei finito col dimenticare se non fosse più tornata. Ma persuaso che almeno una delle due stesse per tornare, succedeva che per un po' di tempo nell'una nell'altra lo facesse. La mia angoscia era dunque duplice, e duplice il mio amore, riservandomi di smettere d'amare quella che fosse tornata, ma soffrendo fino allora per entrambe. È destino di una certa età, la quale può arrivare prestissimo, che ci si innamori meno d'una persona che d'un abbandono, in presenza del quale si finisce col non sapere più di quella persona, il suo volto essendo nell'ombra, la sua anima inesistente, la nostra preferenza affatto recente e inesplicata, che un'unica cosa, e cioè che abbiamo bisogno, per smettere di soffrire, che ci mandi a dire: «Posso venire da voi?». La mia separazione da Albertine, il giorno che Françoise mi aveva detto «Mademoiselle Albertine se n'è andata», era come una pallida allegoria di tante altre separazioni. Molto spesso, infatti, per scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. In questi casi in cui a fissare la scelta è un'attesa vana, una parola di rifiuto, l'immaginazione sferzata dalla sofferenza procede così veloce nel suo lavoro, fabbrica con una rapidità così folle un amore appena cominciato e ancora in forme, destinato da mesi a restare allo stato d'abbozzo, che l'intelligenza, non riuscendo a volte a tener dietro al cuore, si stupisce ed esclama: «Ma tu sei pazzo? In quali nuovi pensieri vivi così dolorosamente? Tutto ciò non è vita reale». E in quel momento, infatti, se non si fosse incalzati dall'infedele, qualche buona distrazione capace di calmare fisicamente il cuore basterebbe a far abortire l'amore. In ogni caso, se la vita con Albertine non era nella sua essenza necessaria, mi era però diventata indispensabile. Avevo tremato amando Madame de Guermantes perché mi dicevo che con i suoi eccessivi mezzi di seduzione, non solo di bellezza, ma di posizione, di ricchezza, sarebbe stata troppo libera d'essere di troppi, che su di lei avrei avuto troppo poca presa. Albertine era povera, oscura, non poteva non desiderare di sposarmi. Eppure non ero riuscito ad averla tutta per me. In verità, si tratti di condizioni sociali o di accorgimenti della saggezza, non si hanno prese sulla vita d'un altro essere. Perché non m'aveva detto «ho questi gusti»? Avrei ceduto, le avrei permesso di soddisfarli. In un romanzo che avevo letto c'era una donna che nessuna obbiurgazione del suo amante poteva indurre a parlare. Leggendolo, la situazione m'era sembrata assurda. Io mi dicevo, l'avrei costretta innanzitutto a parlare, dopodiché ci saremmo intesi. Perché tante inutili infelicità? Ma adesso vedevo che non siamo liberi di non forgiarcele e che abbiamo un bel conoscere la nostra volontà. Gli altri esseri non vi si adeguano. E tuttavia queste dolorose, queste ineluttabili verità che ci dominavano e per le quali eravamo ciechi, verità dei nostri sentimenti, verità del nostro destino, quante volte ce le siamo dette, senza saperlo, senza volerlo, con parole da noi stessi credute menzognere, ma alle quali i fatti hanno dato a posteriori il loro valore profetico. Ricordavo bene le parole che entrambi avevamo pronunciate senza conoscere allora la verità che contenevano, magari credendo di farci l'un l'altra la commedia, e la cui falsità era ben esigua, ben poco interessante, tutta confinata nella nostra penosa insincerità in confronto a ciò che esse contenevano a nostra insaputa. Menzogne, errori, al di qua della realtà profonda che non scorgevamo. Verità al di là, verità dei nostri caratteri, le cui leggi essenziali ci sfuggivano e hanno bisogno del tempo per rivelarsi, verità anche dei nostri destini. Avevo creduto di mentire quando le avevo detto a Balbec «più vi vedrò, più vi amerò», eppure era stata proprio l'intimità di ogni istante che col mezzo della gelosia mi aveva tanto legato a lei. «Sento che potrò essere utile alla vostra mente». A Parigi, cercate di essere prudente, ricordate, se vi capitasse un incidente, non potrei consolarmene, e lei, ma può capitarmi un incidente. A Parigi, la sera che avevo finto di volerla lasciare, fatevi guardare ancora una volta perché presto non vi vedrò più e sarà per sempre. E lei, quando la stessa sera si era guardata intorno, e dire che non vedrò più questa camera, questi libri, questa pianola, non riesco a crederci, eppure è vero. Infine, nelle sue ultime lettere scritte probabilmente pensando «è solo un bluff», «vi lascio il meglio di me». E non era infatti alla fedeltà, alle forze, anch'esse fragili, ahimè, della mia memoria, che erano adesso affidate la sua intelligenza, la sua bontà, la sua bellezza. E quell'istante, due volte crepuscolare, perché finiva il giorno e noi stavamo per lasciarci, non si cancellerà dalla mia mente se non quando sarà invasa dalla notte totale, frase scritta il giorno prima di quello in cui la sua mente era stata effettivamente invasa dalla notte totale. E in quegli ultimi bagliori così rapidi ma che l'ansia del momento suddivide all'infinito, lei aveva forse davvero rivisto la nostra ultima passeggiata? E forse, nell'istante in cui tutto ci abbandona, e ci creiamo una fede come gli atei che diventano cristiani sul campo di battaglia. Aveva chiamato in soccorso l'amico tante volte maledetto, ma tanto rispettato, il quale, poiché tutte le religioni si somigliano, era dal canto suo tanto crudele da augurarsi che lei avesse anche avuto il tempo di ritrovarsi, di offrirgli il suo ultimo pensiero, di confessarsi finalmente a lui, di morire in lui. Ma a che scopo? Dal momento che, se anche allora lei avesse avuto il tempo di ritrovarsi, nessuno dei due avrebbe capito dov'era la nostra felicità. Cosa avremmo dovuto fare, se non quando, se non perché tale felicità non era più possibile, non era più in nostro potere realizzarla? O perché, fin tanto che le cose sono possibili, le differiamo, o perché, Esse non possono assumere quel potere d'attrazione e quell'apparente facilità di realizzazione se non quando, proiettate nel vuoto ideale dell'immaginazione, vengono sottratte alla sommersione del mezzo vitale che le appesantisce e le imbruttisce. L'idea che si morirà è più crudele del morire, ma meno dell'idea che un altro sia morto, che nuovamente piatta dopo aver inghiottito un essere, senza nemmeno un risucchio a segnalarne il luogo, torni a distendersi una realtà da cui quell'essere è escluso, in cui non esiste più nessun volere, nessuna conoscenza, e da cui risalire all'idea che quell'essere è vissuto è tanto difficile quanto dal ricordo ancora recentissimo della sua vita al pensiero che esso sia assimilabile alle immagini senza consistenza, ai ricordi lasciatici dai personaggi d'un romanzo che abbiamo letto.